Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Riprendiamo dopo la sosta festiva di martedì scorso 25 aprile il nostro percorso insieme alla Caritas Diocesana di Padova con questo mese di maggio e al massimo con la festa di Sant'Antonio, quindi tra poco più di un mese andrà a chiudersi anche la nostra stagione, la nostra proposta che segue l'anno pastorale. Ebbene, continuiamo a condividere con voi alcune testimonianze che Caritas Padova raccoglie in queste settimane e torniamo ancora su quell'interessante focus di approfondimento a più voci sul tema cos'è la carità organizzato nel mese di novembre dalla Caritas Padovana. Sentiamo questa bella testimonianza di Elisabetta Cecchieri dell'area animazione della Caritas Diocesana di Bologna. La carità è l'incontro con una persona che è Gesù e è una persona risorta. In quanto persona risorta non è facile riconoscerla. Io ho in mente questa definizione perché ho in mente un luogo preciso del mio lavoro, io lavoro a Bologna e in Caritas noi abbiamo iniziato dall'anno scorso un'esperienza molto bella, anche proprio toccante, anche a livello emotivo. Semplicissimamente noi prendiamo un tè, beviamo un tè, facciamo merenda con le persone che di solito aiutiamo al centro d'ascolto. Lanciamo un tema, perché da questo incontro poi viene estratto un articolo che viene poi pubblicato, e intorno a questo tema le persone sono invitate a raccontarsi a partire dalla loro esperienza. Ecco, lì, in quel contesto lì, io sono certa di aver incontrato il mio Signore risorto. In questa esperienza bellissima in cui si parlava di misericordia e uno di questi signori ha raccontato di come lui si è sentito toccato dalla misericordia andando in una parrocchia a chiedere degli abiti, come spesso capita, perché aveva bisogno di questi abiti da donna e si è sentito toccato quando, chiedendo questi abiti da donna, lui uomo ci ha detto: nessuno mi ha chiesto il perché. Sono stato io a raccontare il perché. Io volevo portare questi abiti a un'amica, agli arresti domiciliari in una struttura, e veniva alla mensa con me. Io ho conosciuto lì, in questa mensa, questa mia amica, alla quale mi permettevo di portare gli abiti della Caritas. Ecco, a questo punto lui ci ha detto: ecco, però la cosa che vi volevo veramente raccontare è un'altra. Io da un certo punto in poi questa ragazza non l'ho incontrata più, non ho più saputo niente, non ho saputo che fine aveva fatto, solo dopo mi hanno detto che era morta. Era una ragazza malata di AIDS, era stata ricoverata ed era morta in ospedale da sola. E con noi ha detto: io con voi qui oggi voglio fare un gesto, però, perché queste sparizioni di noi che viviamo in strada, di cui nessuno sa niente, sono gravi. E quindi ha tirato fuori una foto di questa ragazza e ha fatto questo, semplicemente questo gesto. Vorrei che voi guardaste il suo volto, così, con un'intensità tremenda. Ecco, io in quel momento lì, nel volto di quella ragazza lì che si chiama Sara, fotografato in uno di quei santini che appunto ci ricordano i volti delle persone che non ci sono più, io ho riconosciuto il mio Signore. E in quel gesto di quest'uomo che all'inizio aveva detto: io sono ateo, che vive in strada, la cui vita apparentemente per la società non vale più niente, io ho riconosciuto il gesto del sacerdote che la domenica o durante la celebrazione dell'Eucaristia fa questa cosa, no? E ho capito lì questo, cioè è questa parità di scoprirci fratelli tutti quanti e di amarci così come siamo che fa la carità vera. Non è il dare, che pure questo Signore ha riconosciuto, no? Il dare il vestito per chi non ce l'ha. Quindi la prima cosa che ci ha detto parlando di misericordia è stato questo. Poi però ci ha detto: la misericordia vera è riconoscere questo volto sofferente che sparisce improvvisamente, di cui nessuno si accorge. Io voglio che voi lo vediate, lo riconosciate. Ecco, se io devo dare una definizione di carità è questa per me, no? E non è neanche pensabile più per me che sia, dopo anni che lavoro in Caritas, che sia l'aiutare le persone al diventare autonome, l'animare, no, per me non è così, per me è proprio ora oggi è l'incontro con il mio Signore risorto, no? Ed è un incontro bellissimo, bellissimo, perché dà significato alla fragilità di ognuno, alla mia, come a quella di quel signore lì, come a quella di Sara. Bella testimonianza di Elisabetta Cecchieri dell'area animazione del Caritas diocesana di Bologna. Il tema apparentemente e formalmente semplice, ma in realtà molto complesso da sviluppare, era carità è puntini puntini, e i puntini in sospensione che appunto Elisabetta ha riempito, ma nelle settimane scorse e anche sul canale YouTube di Caritas Padova trovate le altre testimonianze, quelle di Eli De Siviero, di Padre Guido Bertagna, di Luigi Gui, che già abbiamo condiviso in questo spazio, che torna puntualmente fra 7 giorni. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.